Margaret aprì la porta e fece il suo ingresso con il contegno virtuoso e nobile che le era abituale. Non provava alcuna soggezione, era troppo abituata a stare in società. Aveva davanti una persona che veniva da suo padre per lavoro e, dato che si era dimostrata cortese, era disposta a trattarla con la giusta dose di educazione. Il signor Thornton fu di gran lunga più sorpreso e turbato di lei. Al posto di un tranquillo parroco di mezz'età si fece avanti una giovane signora dai modi dignitosi e onesti, una giovane signora molto diversa dalla maggior parte delle signorine che vedeva di solito. Il suo abbigliamento era semplice: un cappellino di paglia del miglior materiale, della miglior foggia, decorato con nastri bianchi, un abito di seta nero senza alcun abbellimento né balza, un ampio scialle indiano che le cadeva intorno in lunghe e pesanti pieghe e che indossava come un'imperatrice indossa il suo drappo. Non capiva chi fosse, ma su quel bellissimo viso aveva colto un'espressione innocente, franca e imperturbata, che dimostrava come la presenza di un uomo nella stanza non la mettesse in alcun modo a disagio e non suscitasse nessun imbarazzo sul pallido avorio del suo incarnato. Aveva sentito che il signor Hale aveva una figlia, ma si era immaginato che fosse una bambina. «Il signor Thornton, suppongo», disse Margaret, dopo un breve istante durante il quale lui non riuscì a dire nulla. «Accomodatevi, mio padre mi ha accompagnato fino alla porta proprio un attimo fa, ma sfortunatamente non gli hanno detto che eravate qui ed è andato a sbrigare alcune faccende. Ma tornerà subito, mi dispiace che vi siate preso il disturbo di passare due volte». Il signor Thornton era, per sua abitudine, autoritario, ma lei sembrò da subito assumere una qualche forma di controllo su di lui. Si stava spazientendo per la perdita di tempo in un giorno di mercato, un attimo prima che lei comparisse, eppure ora si metteva tranquillamente a sedere come lei aveva comandato. «Sapete dove è andato il signor Hale? Forse potrei riuscire a trovarlo». «Oh, è andato da un certo signor Donkin in Kenyon Street. È il proprietario della casa che mio padre vorrebbe prendere a Crampton». Il signor Thornton conosceva la casa. Aveva visto l'annuncio ed era stato a vederla, assecondando la richiesta di Bell di assistere Hale meglio che poteva. Inoltre, era spinto dal suo personale interesse per il caso di un reverendo che aveva lasciato la sua parrocchia, come aveva fatto il signor Hale. Il signor Thornton aveva pensato che la casa a Crampton facesse proprio a caso loro, ma ora, vedendo Margaret così nobile nelle movenze e nell'aspetto, iniziò a provare vergogna per aver immaginato che sarebbe andata più che bene per gli Hale, nonostante quella certa grossolanità che lo aveva colpito quando era stato a visitarla. Margaret non poteva farci nulla, s'era fatta così, ma il labbro superiore, che a tratti si raggrinziva, il mento rotondo e marcato, la postura del capo, i movimenti carichi di tenera sfida femminile, la facevano sempre apparire altezzosa agli estranei. Era stanca ora e avrebbe preferito restare in silenzio e riposare un po', come il padre le aveva suggerito, ma di certo era un dovere verso se stessa quello di comportarsi da signora e scambiare di tanto in tanto qualche parola cortese con questo estraneo. Non troppo in ordine né tirato a lucido, bisogna dirlo, dopo il suo ruvido scontro con le strade e la folla di Milton. Desiderava che lui se ne andasse, come una volta aveva detto che avrebbe fatto, invece di restarsene seduto lì, dando risposte secche a ogni osservazione che lei faceva. Si era tolta lo scialle, l'aveva appeso sullo schienale della poltrona e stava seduta di fronte a lui in piena luce. La sua bellezza gli riempiva gli occhi, il suo candido collo tornito e sinuoso si elevava dalla figura morbida ma agile, le sue labbra, che facevano movimenti impercettibili mentre parlava, non rovinavano l'espressione distaccata e serena del suo volto, mantenendo un'increspatura deliziosa e sprezzante. I suoi occhi, lievemente malinconici, incontravano quelli di lui con la libertà di una fanciulla spensierata. Thornton cercava di convincersi che lei non gli piacesse prima che la loro conversazione finisse, tentando in tal modo di sopperire alla mortificazione che provava, poiché mentre lui la osservava con un'ammirazione che non riusciva a reprimere, lei lo guardava con fiera indifferenza, prendendolo, pensava, per quello che lui con irritazione diceva a se stesso di essere, un tipo molto rozzo, senza alcunché di gradevole o raffinato. La pacata freddezza del suo contegno la interpretava con disprezzo e in fondo al cuore se ne rammaricava al punto di essere quasi propenso ad alzarsi e andarsene e non aver più nulla a che fare con questi Hale e con la loro arroganza. Proprio quando Margaret aveva esaurito il suo ultimo argomento di conversazione e tuttavia a stento si poteva chiamare conversazione uno scambio così scarno di battute, suo padre entrò. E con i suoi bei modi cortesi da gentiluomo nel porgere le proprie scuse, ricollocò il suo nome e la sua famiglia nella buona opinione del signor Thornton. Il signor Hale e i suoi ospiti avevano molto da dirsi riguardo al loro comune amico, il signor Bell, e Margaret, contenta che fosse finito il suo compito di intrattenere l'ospite, andò alla finestra per cercare di familiarizzare con lo strano aspetto della strada. Quello che succedeva fuori l'assorbì a tal punto che a stento udì le parole del padre, costretto a ripeterle quello che aveva detto. Margaret, il proprietario si ostina ad apprezzare quell'orribile carta da parati. Temo che dovremmo lasciarla lì. Oh, papà caro, che peccato, rispose. E si mise a riflettere sulla possibilità di nasconderli almeno in parte con alcuni dei suoi schizzi. Ma alla fine abbandonò quell'idea perché probabilmente avrebbe solo peggiorato le cose. Suo padre, nel frattempo, con la gentile ospitalità della gente di campagna, stava cercando di convincere il signor Thornton a fermarsi a pranzo. Sarebbe stato molto seccante per lui accettare, eppure sentiva che avrebbe dovuto cedere se Margaret avesse assecondato con parole o sguardi l'invito del padre. Fu contento che non lo fece e allo stesso tempo provò una certa irritazione perché non lo aveva fatto. Lei abbozzò un formale inchino quando lui se ne andò, sentendosi impacciato e legato in ogni parte del corpo come non gli era mai capitato in vita sua. «Bene, Margaret, ora a pranzo, facciamo in fretta, l'hai ordinato?» Eh no, papà, quell'uomo era qui quando sono arrivata e non ne ho avuto modo. Allora, beh, dobbiamo prendere quello che c'è e temo che abbia aspettato a lungo. A me è sembrata un'attesa interminabile, non ne potevo proprio più quando sei entrato. Non ha mai approfondito nessun argomento, si è limitato a dare risposte brevi e secche. Tuttavia, molto ben appropriate, devo dire, e uno che ha le idee chiare. Ha detto. Hai sentito che Crampton si trova su un terreno ghiaioso ed è di gran lunga il sobborgo più salutare nei dintorni di Milton. Al loro ritorno a Heston c'era da fare il resoconto della giornata alla signora Hale, piena di domande alle quali risposero tra un sorso di tè e l'altro. E che tipo è il vostro corrispondente, signor Thornton? Chiedetelo a Margaret, disse suo marito. Lei e signor Thornton hanno fatto ripetuti tentativi di conversazione mentre io ero via a parlare con il proprietario. Oh, ricordo a malapena com'è fatto, disse Margaret pigramente, troppo stanca per mettere alla prova il suo talento nelle descrizioni. E poi, ridestandosi, disse: È un uomo alto, con le spalle larghe, di circa quanti anni, papà? Credo una trentina. Una trentina, ecco, con un viso che non è né proprio brutto e neanche bello, niente di speciale, non esattamente un gentiluomo, ma che lo fosse difficilmente potevamo aspettarcelo. Non ordinario e volgare, però, aggiunse il padre, piuttosto attento a qualsiasi critica sull'unico amico che aveva Milton. Oh no, disse Margaret, con quell'espressione risoluta e autoritaria, nessun viso, per quanto comuni siano i tratti, potrebbe essere ordinario o volgare. Non mi piacerebbe dover negoziare con lui. Sembra molto deciso, nel complesso un uomo che sembra tagliato per il suo mestiere, mamma. Sagace e risoluto, come si addice a un bravo commerciante. Non chiamare gli industriali di Milton commercianti, Margaret, disse suo padre, sono molto diversi. Davvero? Oh, io uso questa parola per tutti quelli che hanno qualcosa di tangibile da vendere, ma se ritieni che il termine non sia corretto, papà, non lo userò. Ma, oh, mamma, a proposito di cose ordinarie e volgari, devi prepararti per la carta da parati del nostro salotto. Roselline blu e rosa con foglie gialle. Ah, e una cornice pesantissima intorno alla stanza. Eppure, quando si trasferirono nella loro nuova casa a Milton, l'odiosa carta da parati non c'era più. Il Il proprietario non si scompose nel ricevere i loro ringraziamenti e lasciò che pensassero, se così volevano, che si fosse ammorbidito rispetto alla sua espressa determinazione di non ritappezzare. Non c'era alcun particolare bisogno di dir loro che quello che non aveva alcun interesse a fare per il reverendo Hale, sconosciuto a Milton, era più che felice di fare dopo un'unica breve e decisa rimostranza per il signor Thornton, il ricco industriale. 8. Nostalgia di casa. C'era bisogno della graziosa carta da parati chiara delle stanze per riconciliarsi con Milton. A dire il vero c'era bisogno di molto più, quel più che non potevano avere. Le spesse nebbie giallognole di novembre erano arrivate a impedire la vista della pianura sulla vallata creata dall'ampia ansa del fiume quando la signora Hale giunse nella sua nuova casa. Margaret e Dixon stavano lavorando da 2 giorni, svuotando pacchi e mettendo a posto, ma dentro casa tutto sembrava ancora in disordine e fuori una fitta nebbia si diffondeva lentamente fino a raggiungere le finestre e attraverso tutte le porte aperte veniva spinta dentro in soffocanti spirali bianche di vapori malsani. «Oh, Margaret, dobbiamo vivere qui?» domandò la signora Hale con totale costernazione. Il cuore di Margaret faceva eco al tono di tristezza in cui questa domanda fu posta. Riuscì a stento ad avere abbastanza autocontrollo per dire «Oh, le nebbie di Londra a volte sono molto peggio». «Ma si sa che oltre quelle restano sempre Londra e gli amici qui. Beh, siamo soli. Oh, Dixon, che razza di posto è questo?» «Davvero, signora, sono certa che in poco tempo vi porterà alla morte, e poi saprò io chi...» «Fermatevi, signorina Hale, quello è fin troppo pesante per voi da sollevare!» «Niente affatto, grazie, Dixon», rispose Margaret con freddezza. «La cosa migliore che possiamo fare per la mamma è prepararle la stanza finché possa andare a dormire, mentre io vado a prenderle una tazza di caffè». Il signor Hale era giù di corda allo stesso modo, e allo stesso modo cercò in Margaret un po' di solidarietà. «Margaret, credo proprio che questo sia un luogo insalubre. Pensa se la salute di tua madre o la tua ne risentissero. Oh, se solo fossi andato in qualche posto di campagna nel Galles. È proprio terribile qui», disse andando alla finestra. Non esistevano parole di conforto. Si erano stabiliti a Milton e per una stagione dovevano sopportare fumo e nebbie. A dire il vero, ogni altra vita sembrava loro preclusa dalla spessa nebbia delle circostanze. Soltanto il giorno prima il signor Hale, con grande sconforto, aveva calcolato quanto erano costati il trasloco e le 2 settimane a Heston, scoprendo che gli avevano prosciugato quasi tutto quel gruzzoletto di contanti che aveva messo da parte. No, qui erano e qui dovevano restare. La sera Margaret, rendendosene conto, si sedette e si abbandonò a una disperazione che la stordiva. L'aria pesante e fumosa aleggiava nella sua camera, che occupava la sporgenza lunga e stretta sul retro della casa. La finestra si affacciava sul muro bianco di un'analoga sporgenza, distante non più di 3 metri, che si profilava nella nebbia come un'enorme barriera alla speranza. All'interno della stanza era tutto in disordine. Avevano indirizzato tutti i loro sforzi a rendere confortevole la camera della madre. Margaret stava seduta sopra una scatola, la cui etichetta la colpì poiché era stata scritta a Helston, la bella e amata Helston. Si smarrì in tristi pensieri, ma alla fine decise di distogliere la mente dal presente e improvvisamente si ricordò di avere una lettera di Edith che aveva letto solo per metà nel trambusto di quella mattina. Era il racconto del loro arrivo a Corfù, del viaggio lungo le coste del Mediterraneo, la musica, i balli sulla nave, la nuova vita spensierata che le si apriva davanti, la sua casa con il terrazzo di graticcio che si affacciava sulle scogliere bianche sul mare turchese. Edith scriveva bene, in modo fluente, se non pittoresco. Non solo riusciva a cogliere i punti salienti e caratteristici di una scena, ma persino a elencare in modo generico quei particolari che bastavano a Margaret per completarsela da sola. Il capitano Lennox e un altro ufficiale che si era sposato da poco condividevano una villa sopra le splendide rocce a picco sul mare. Le loro giornate, mentre l'anno volgeva ormai alla fine, sembravano trascorrere tra picnic in barca o sulla spiaggia, tutta all'aperto, alla ricerca del divertimento e felice. La vita di Edith assomigliava alla profonda volta blu del cielo sopra di lei, libera, completamente libera da ombre o nuvole. Suo marito doveva andare all'addestramento e lei, quella che più si intendeva di musica tra le mogli degli ufficiali lì presenti, doveva trascrivere gli ultimi brani famosi della musica inglese più recente per il direttore della banda. Questi sembravano essere i suoi compiti più importanti e difficili. Si augurò con affetto che Margaret potesse andare a far loro una lunga visita, qualora il reggimento si fosse fermato ancora un anno a Corfù. Domandò a Margaret se ricordava quello stesso giorno di un anno prima di cui lei, Edith, scriveva, se ricordava come non avesse mai smesso di piovere in Harley Street e come non avesse voluto indossare il suo abito nuovo per andare a una stupida cena e bagnarselo e infangarselo per prendere la carrozza, e come proprio a quella cena avessero incontrato per la prima volta il capitano Lennox. Sì, Margaret lo ricordava bene. Edith e la signora Shaw erano andate a cena. Margaret le aveva raggiunte la sera alla festa. Il ricordo del lusso sfrenato, di tutti gli addobbi, la sontuosa bellezza dei mobili, la grandezza della casa, la pacifica e tranquilla serenità degli ospiti, tutto apparve davanti ai suoi occhi in modo nitido, in uno strano contrasto con il presente. Le tranquille acque di quella vecchia vita si chiusero senza lasciare alcuna traccia che rivelasse i luoghi in cui tutti loro erano stati. Le cene abituali, le visite, gli acquisti, le serate danzanti, tutto andava avanti e sarebbe andato avanti per sempre, anche se zia Shaw e Edith non erano più lì. E di lei certamente si sentiva ancor meno la mancanza. Dubitava che qualcuno della vecchia cerchia pensasse mai a lei, tranne Harry Lennox. Anche lui, lo sapeva, si sarebbe sforzato di dimenticarla per il dolore che gli aveva causato. L'aveva sentito spesso vantarsi della sua capacità di allontanare da sé tutti i pensieri spiacevoli. Poi, riflettendo, ipotizzò come sarebbe stato. Se lo avesse voluto come innamorato e avesse accettato la sua proposta, e se avessero avuto luogo il mutamento di pensiero del padre e il declino sociale che ne sarebbe derivato, era certa che il signor Lennox non lo avrebbe tollerato. In un certo senso fu un'amara mortificazione anche per lei, ma riusciva a sopportarla pazientemente poiché conosceva la purezza dell'intento di suo padre e ciò la rendeva forte nel sopportare i suoi errori, per quanto li reputasse gravi e seri. La bassa considerazione che tutti avrebbero avuto per suo padre, però, era un fatto che avrebbe oppresso e irritato il signor Lennox. Immaginando come sarebbe potuto essere, si sentì grata per come erano andate le cose. Avevano toccato il fondo ora, non potevano stare peggio di così. Lo stupore di Edith e lo sconforto di zia Shaw andavano affrontati con coraggio all'arrivo delle loro lettere. Così Margaret si alzò e iniziò lentamente a svestirsi, assaporando il lusso di fare con calma, tardi com'era, dopo tutta la fretta della giornata. Si addormentò con la speranza di un po' di luce, sia fuori che dentro di sé, ma se avesse saputo quanto tempo doveva ancora passare prima che la luce arrivasse, il suo cuore sarebbe sprofondato in un abisso ancora più buio. Il periodo dell'anno non era affatto propizio né per la salute né per l'umore. Sua madre prese un brutto raffreddore ed era evidente che la stessa Dixon non stesse molto bene, benché non ci fosse offesa peggiore per lei del tentativo di Margaret di aiutarla o di prendersi cura di lei in qualche modo. Non riuscivano a trovare nessuna ragazza che potesse dare una mano in casa. Lavoravano tutte nelle fabbriche. Ad ogni modo, quelle che si candidarono furono tutte redarguite da Dixon per la loro presunzione di saper lavorare per la famiglia di un gentiluomo. Dovevano necessariamente tenere una domestica quasi sempre in servizio. Margaret desiderava ardentemente mandare a chiamare Charlotte, ma accanto all'obiezione che era una cameriera troppo brava per potersela permettere in quel momento, la distanza era troppo grande. E il signor Hayes si incontrava con parecchi allievi che gli erano stati raccomandati dal signor Bello, dal signor Thornton, la cui influenza era più diretta. Avevano più o meno quell'età in cui molti ragazzi sarebbero andati ancora a scuola, ma secondo le teorie predominanti e apparentemente ben fondate di Milton, per diventare un buon commerciante un ragazzo deve essere preso da giovane e acclimatato alla vita di fabbrica, di ufficio o di magazzino. Se fosse mandato persino nelle università scozzesi, al suo ritorno non sarebbe adatto per le attività commerciali? Figuriamoci se andasse a Oxford o Cambridge, dove non sarebbe ammesso prima dei 18 anni. Così la maggior parte degli industriali costringeva i propri figli a un lavoro sfibrante sin dai 14 o 15 anni, tranciando inesorabilmente ogni ramo che tendeva verso la letteratura o la fine cultura intellettuale, nella speranza che tutta la forza e il vigore della pianta si riversassero nel commercio. Eppure c'erano genitori più giudiziosi e alcuni giovani che avevano abbastanza senno da accorgersi delle proprie mancanze e si sforzavano di porvi rimedio. Anzi, ce n'erano alcuni che non erano più dei ragazzi, ma uomini nel fiore degli anni che avevano il buon senso di riconoscere la propria ignoranza e di imparare dopo quello che avrebbero dovuto imparare prima. Tra gli allievi del signor Hale, il signor Thornton era forse il più vecchio. Di sicuro era il preferito. E signor Hale prese l'abitudine di citare le sue opinioni così di frequente e con un tale riguardo che diventò una piccola battuta in casa, quella di chiedersi quanto tempo durante le ore stabilite per l'insegnamento potesse esservene effettivamente dedicato, talmente tanto sembrava il tempo che avevano trascorso in chiacchiere. Margaret quasi incoraggiava questo modo frivolo e gaio di considerare l'amicizia tra suo padre e il signor Thornton, poiché sentiva che sua madre era portata a guardare a questa nuova conoscenza del marito con occhi pieni di gelosia. Fintanto che lui aveva impiegato il suo tempo solamente con libri parrocchiani come Helston, non era sembrata preoccuparsi tanto di vederlo o meno, ma adesso che attendeva con impazienza di incontrare il signor Thornton e rinnovargli ogni volta la sua amicizia, sembrava ferita e contrariata, come se lui stesse snobbando per la prima volta la sua compagnia. L'elogio eccessivo del signor Hale aveva il solito effetto che hanno gli elogi eccessivi sui propri ascoltatori. Essi tendevano un po' a ribellarsi contro quell'aristide, detto il giusto. Dopo un'esistenza tranquilla spesa in una canonica di campagna per più di 20 anni, il signor Hale non poteva che rimanere in qualche modo folgorato da quell'energia capace di superare difficoltà enormi con facilità. La forza delle macchine di Milton, la forza degli uomini di Milton lo impressionavano per la loro potenza, alla quale si arrendeva senza preoccuparsi di indagare i dettagli del suo impiego. Margaret invece andava poco in giro fra gli uomini e le macchine, capiva meno la conseguenza visibile di quella forza e si dà il caso che familiarizzò con un paio di quelli che, influenzando in larga misura le masse, dovevano patire per il bene di molti. La domanda è sempre la stessa. È stato fatto tutto il possibile per ridurre al minimo la sofferenza di queste eccezioni? Oppure, nell'affollato corteo trionfale, gli indifesi vengono calpestati invece di essere garbatamente allontanati dal carro del vincitore, che non hanno alcuna possibilità di accompagnare nella marcia?